Época de Natal, Poareto, ma Poareto svenio, una casetta mal fatta. E mi è buon dormire, sapete, no? Debiti, fioi per dare questi presenti di Natal, e il garreso vesto ciapà, e scrive una carta a Gesù Cristo. Ciò che idea che capivo, eh? Che avevi mai fatta questa, Valtri? Ora ascolti bene. E ciapà che scriveste una carta a Gesù Cristo. Gesù Cristo, vengo per via di queste 4-5 parolette qua, dirti che le cose qua va mia tanto male, de salute va bene, ma pensieri, fioi, puoriti come i ragni, debiti de pagare, se ti potessi mandarmi il bambino, 3.000 conti. Assina Tony, fa su sta cartina, pianta rento te envelope, con la egueta, dato in paese, indirizza sta cartina a Gesù Cristo. Quando lei arriva rento del correo, stitusi chi c'era là il logare se vesto benissimo, e ha visto che lei era un uomo puaretto, umilde, ma tutto quanto educato. E allora, ha visto sta carta, carimbada, ha pagato 3 centavetti e è tornato. Lori, quando andai a mettere via la carta che ha visto, indirizzata a Gesù Cristo, a signor Inri, che ha pensato, e se ha guardato e stai muti di colpo, e se ha guardato, femo che tu sì, epoca di Natale, sia come vesti, versemo a carta, sì perché sarei ancora là, verdi a carta e galesesto, ah sì, se ha commossi del buon, e se ha commossi, e se ha guardato e ha detto, fosse far cosita, ci abbiamo un paio di soldi cada un, femo una vacchetta, e che postemo qua, che la indirizzemo a lusto Tony, quando torna in trio, lui cata la carta e sti soldi. E così te ha fatto. Ma tolso un po' di qua, tolso un po' di là, e ha conseguito far 1.500 conti. Cioè, ma era soldi. E ha messo dentro sti 1.500 conti, indirizzata a Tony e piantata là. Ha passato 3-4 giorni, le venies, con la sua eguetta, umildi, le arriva là. Vorrei sapere che se carte per Tony. Sì, signor. Qua che ne una, dato sta carta, e lui salta insieme a sta egueta e via. Par la strada, e sentiva lui che il balocchetto era grande, no? Entro l'envelope, verdi l'envelope e scomincia. E conta ciò, e conta una volta 1.500, conta due volte 1.500, conta tre volte 1.500. Ciappa la egua, torna in drio. Tornate al correo. Gavì una cartina lì e un papel, poderissimo, imprestamelo, sì, impresta. Dato via da un cantone, ha scritto una carta, piantata dentro l'envelope, pagato 300, dato via. Quello del correo ha detto, che uomo, eh? Pensè che sora. Quello lì è un uomo sincero, puro, puaretto, umilde, ma guardate che grande uomo. Nel minimo, è il che ha scritto un'altra carta a Gesù Cristo per ringraziarlo dei soldi. Verdi sta carta che era scritto. Gesù Cristo, te ringrazio gran tanto per sforzo che te hai fatto. Ma un'altra volta che te mi mandi i soldi, fa il seguente, mandami un cheque nominale perché i cancheri del correo me ga porta via mesi.